concedano i supplementari. Non si concedano i supplementari. Invitiamo i signori ad accomodarsi verso l'uscita. La musica è finita. La musica è finita. Gli amici se ne vanno.